Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. La robotica umanoide volante è una disciplina agli esordi, ne abbiamo parlato ieri, e l'idea fondamentalmente è di dotare gli attuali robot umanoidi di turbine a reazione montate sugli arti e sulla schiena che permettano loro di volare per alcuni minuti. Robot di questo genere potrebbero rivelarsi straordinari in situazioni di emergenza dove, oltre all'abilità di manipolare degli oggetti e di muoversi in ambienti costruiti per l'uomo, è necessaria anche la capacità di raggiungere luoghi che altrimenti sarebbero irraggiungibili. Ma questo è solo l'inizio. All'IIT, dove Daniele Pucci, pioniere della robotica umanoide aerea e alla guida del suo gruppo di ricerca e sta lavorando appunto su questi scenari, già si pensa ai prossimi step. Quali robot umanoidi che cambiano forma in volo, quindi dei Transformers in pratica. E allora, per parlare di tutto questo, torniamo all'IIT da Daniele Pucci e più precisamente al Dipartimento QCSDC, quelli che si divertono un casino. Buonasera Pucci. Buonasera. Naturalmente Pucci è a capo di una linea di ricerca che si chiama Dynamic Interaction Control, è considerato uno dei ricercatori under 35 più influenti d'Europa, ma io credo che voi lì vi divertiate un casino. Sì, ci divertiamo. Per allora, di che cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di robot umanoidi, come dicevamo ieri, in grado di, sì, anche in grado di volare, però se immaginiamo un robot umanoide che vola, di certo la sua aerodinamica non è ottimale, certo, magari per sostenere voli orizzontali ad alte velocità. E quindi ecco che allora bisogna immaginare un robot e soprattutto delle soluzioni in grado di far sì che il robot a terra sia un robot umanoide e di un volo magari assomigli più ad un'ala che è ottimizzata, certo, a profilo ottimizzato per il volo stesso. Questo è importante soprattutto per allungare l'autonomia di volo, no? Oltre, esatto, che la velocità, l'autonomia. Questo è il punto fondamentale. L'autonomia di volo, dato una certa quantità di energia, certo, se la forma è ottimizzata per l'aerodinamica del robot, ecco che si può percorrere uno spazio maggiore. Siamo allora a zero però da questo punto di vista, quindi voi state cominciando a studiare il tema ponendovi le domande proprio fondamentali, no? Se ho capito bene, una domanda fondamentale è capire che cosa deve cambiare forma di preciso e in che modo. Esatto, diciamo che quello che noi stiamo immaginando è un robot umanoide che è composto da tante parti, e per far sì che la forma completa del robot umanoide assomigli magari ad un'ala, tutte le sottoparti del robot devono cambiare in modo opportuno. Quindi, non so, l'avambraccio si deve allungare un pochino, oppure la gamba si deve assottigliare. E questa in realtà è già una delle due opzioni, se ho ben capito, perché è una possibilità, come dire, che cambi la disposizione dei pezzi, delle parti del robot, e un'altra che cambi la forma di queste parti. Voi avete già scelto questa seconda strada. Esatto, diciamo che l'altra opzione sarebbe stata quella di mantenere la forma di ogni sottoparte costante e far muovere ad esempio il braccio del robot. Però questo complicherebbe il controllo del robot, in quanto è meglio avere, se vogliamo, un po' quello che succede con gli aerei. Gli aerei hanno le turbine fisse rispetto alla scocca, e poi magari si allunga un pochino l'ala in fase di atterraggio. Ecco, mantenere la spinta fissa rispetto alla scocca dell'aereo e modificare invece la forma del profilo alare dà dei vantaggi. Dà dei vantaggi quando si va poi nel controllo del robot stesso. Un altro tema che state affrontando è quello della sensoristica, che assume, come dire, tutta una serie di connotazioni particolari in questo caso. Esatto, diciamo che la sensoristica di un robot umanoide che vola dovrebbe anche includere la percezione dell'aerodinamica. Nel caso specifico, il nostro obiettivo è quello di usare iCub, il robot umanoide che abbiamo qui all'IT. Sviluppato lì all'IT, una piattaforma robotica sviluppata negli anni lì all'IT, una delle più usate in tutto il mondo. Esatto, e iCub ha anche una pelle artificiale che gli permette di capire quando viene toccato, ma di fatto noi quando tocchiamo una persona esercitiamo una pressione, e la pressione può essere esercitata anche dall'aria, certo, dall'aria. E quindi se noi immaginiamo una pelle del futuro in grado di percepire non solo il tocco, ma anche un soffio, ecco che allora possiamo percepire l'aerodinamica distribuita su tutto il corpo e le sottoparti che devono cambiare forma possono cambiare forma in funzione dell'aerodinamica percepita in modo distribuito. Quindi un robot che impara ad assumere la forma più aerodinamica a seconda delle situazioni, che può usare anche l'aria per fermarsi, per frenare, e sente col corpo queste cose. Esattamente, è un po' quello che fanno, se vogliamo, gli uccelli. Certo. Alla fine un aspetto... E forse anche i bravi nuotatori, ecco, diciamo. Esatto, anche i bravi nuotatori. Ecco, prima di lasciarci, state sempre ragionando su situazioni di emergenza e su robot volanti, pensando però anche a soluzioni che non necessariamente richiedano un robot umanoide. Sì, esatto, noi quello che immaginiamo è poi di semplificare la tecnologia del robot umanoide volante per cercare di trovare delle soluzioni a problemi concreti che già la società sta cercando di affrontare. Ad esempio, se ci ricordiamo dell'11 settembre, accadde che le persone si gettarono dagli edifici in fiamme, certo, in quanto le scale dei pompieri non potevano certo arrivare a 300 metri d'altezza, è chiaro. Esatto, e quindi la nostra idea è quella di fare degli ascensori volanti dotati di turbine che semplificano, invece di avere delle eliche gigantesche molto ingombranti e che impedirebbero di avvicinarsi al grattacielo realisticamente, anche sarebbe molto più complicato. Sì. Esatto, sarebbe molto più complicato, specialmente per gli effetti aerodinamici poi vicino al grattacielo, certo, distribuiti, e quindi questi ascensori volanti potrebbero avvicinarsi all'edificio in fiamme, le persone potrebbero salire e poi potrebbero essere tratte in salvo. Va bene, grazie Daniele Pucci, e avanti così. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Bene, ci fermiamo qui, buona serata a tutti voi.